Buonasera a tutti, eccoci qui dalla Festa dell'Unità, Festa Democratica con Quartiere Latino in questa versione live, non dagli studi di Radio Città Futura, bensì dallo stand di Radio Città Futura all'interno della Festa dell'Unità, Via delle Terme di Caracalla. Come sapete, Quartiere Latino non soltanto si sposta di luogo, ma anche di orario, quindi non soltanto fino alle 22 come al solito, alle 22 come al solito lasceremo la parola alla BBC fino alle 23, ma torneremo subito dopo, quindi dalle 23 alle 24 anche questa sera saremo con voi, sempre da qui dalla Festa dell'Unità con Quartiere Latino. Allora io saluto da subito Giampaolo Catanzaro che ci seguirà in regia appunto fino alle 24, e come sapete noi racconteremo anche questa sera tutto quello che avviene da queste parti, e non soltanto, allargheremo il discorso a tante questioni sia politiche che non, a partire da questioni psicologiche, perché questa sera, fra pochissimo, nello spazio Rinascita sarà presentato il libro di Massimo Fagioli, Istinto di morte e conoscenza, libro scritto nel 1970 ma ristampato dall'Asino d'Oro proprio in questi giorni, una nuova edizione che appunto verrà presentata fra qualche momento, e io sono qui proprio con Massimo Fagioli. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei e a voi e tutti. Fagioli, un libro importante perché appunto nel 70 rappresenta un po' le sue basi teoriche, metodologiche di una vita ovviamente dedicata alla ricerca sulla malattia mentale, sulla cura, sulla conoscenza di tanti fenomeni e anche di teorie importanti quali quelle sulla fantasia di sparizione, sulla pulsione di annullamento. Un libro insomma che ha fatto un po' da spartiacque in Italia. Sì, penso proprio di sì. Credo che voi stessi dovreste ricordare che due mesi fa avete parlato di un libro rivoluzionario. Effettivamente si oppone a tutto una, più che a una cosa specifica detta psicanalisi, cioè cura, questa famosa che fa parte o di una cosiddetta teoria ma anche di una prassi, che sarebbe di cura, poi dicono che non è cura, non si capisce, eh? Ma è uno scontro culturale. Sì. Culturale perché nella misura in cui si riferisce alla ricerca su quella che è la realtà umana. E non la realtà umana della coscienza, comportamento e linguaggio articolato. Quello lo fa la psicologia, magari la psichiatria, quando si tratta di malattie. La ricerca su quello che è stato sempre chiamato inconscio e che è stato detto inconoscibile. Il termine tedesco è Das Unbewusste. Esatto. Cioè non c'è niente, lo disse Schelling nell'Ottocento, proprio l'anno 1800, che quello esiste però non è conoscibile. Mentre qui, come hai detto... L'inconscio? L'inconscio. Sì. C'è, però non è conoscibile. Ok. Poi quello che hai detto, invece io ho proceduto prima della cura alla conoscenza. E ho messo a fare lo psichiatra, eccetera, eccetera, e dopo 10 anni, prima ho trovato una certa... cosa che si chiama studio di percezione delirante, per vedere, di riuscire a vedere quello che non è direttamente percepibile, cioè riuscire a fare un metodo deduttivo, che sarebbe l'estensione, l'approfondimento, l'assottigliamento e la raffinatezza del metodo medico, non metodo medico attuale, ma metodo medico di 50 e 100 anni fa, quando soffietto, brontolio, crepitio, soffietto, il medico doveva dedurre la realtà invisibile. Dopo sono venute le radiografie, la taglia, non lo fa più. Come si deduce invece in questi casi? In questi casi, dalla comunicazione del paziente si fa l'osservazione, quindi la diagnosi della situazione cosciente, e poi se quello parla e racconta in particolare i sogni. Sogni, quindi. Si tratta di vedere, sì, che sono questi sogni e di capire questo linguaggio misterioso, senza parola, che è fatto dalle immagini uniche. Il legame ci porta però inevitabilmente a Freud, l'interpretazione dei sogni. Ecco, e stavo dicendo, pensato e dico sempre, che non so perché, tanti intellettuali dicono che è un gigante del pensiero. Perché? Ah, ecco, tanti intellettuali dicono che è un gigante del pensiero, lei quindi non pensa. Freud scrive, dopo gli studi sull'isteria, che poi sono di Breuer e non di Freud, nell'899 l'interpretazione dei sogni. Poi afferma, e nell'interpretazione dei sogni, capitolo 6, capitolo 7, afferma che i sogni sono allucinazioni per soddisfazione del desiderio. Allora, siccome il desiderio è insoddisfatto, allora non sa il signor medico, che poi era un medico, che l'allucinazione significa che l'immagine non esiste, altrimenti non è allucinazione. E lui ha scritto 750 pagine di interpretazione di immagini che non esistono. Io non lo so se si può considerare una cosa di questo genere. Ma la cultura poi dice che Freud ha scoperto l'inconscio e con grande pensatore, quando ha detto che l'inconscio è inconoscibile. S lo chiama, prendendo il termine da Grodeck e seguendo quello che diceva l'idealista tedesco che era Schelling. Io mi sono ribellato, ecco perché è rivoluzionario, a questi discorsi dissociati, ma proprio questi discorsi fuori dal mondo. Non conosce il desiderio, non conosce la negazione. Di Fernheim è un punto cardinale della negazione, che non è bugia. Freud non la conosce. Non lo dice, dice che la cosa è una bugia. Oggi non è sera, no, quella non è negazione. La negazione è un fatto dell'inconscio per cui si deforma l'immagine, per cui posso sognare che lui è grasso come un pallone, allora è una negazione della realtà. Chiaro, Freud non la conosce, non conosce la pulsione dell'annullamento. Freud, quando negli anni 20 c'era stato un certo fermento in Francia con la Forgue, con Pichon, con lo stesso Lacan, eccetera, per cui parlavano, si erano messi allo scotoma, cioè a un certo momento dico com'è gli occhiali, ho dimenticato gli occhiali, cioè uno che annulla la realtà della percezione. Questo capita a tutti, no? Che dice non ce l'ho gli occhiali di casa e ce l'hai in mano, certo. Che deriva dal discorso dell'isteria, cioè le anestesie, quando l'anestesia è senza lesione organica, per cui la gamba non si muove, ma non c'è nessuna lesione organica. Freud, 1927, nel feticismo dice no, non esiste, non c'è niente da prendere in considerazione, perché esiste solo la rimozione, cioè la dimenticanza, dimenticando anche lì che anche il comune fa molte rimozioni delle macchine. Certo, certo, io dico certo. Un linguaggio di Verdrangon è rimozione, ma quello lo fa comunque. Torniamo a questo libro, a questo volume che è fondamentale, cioè, tra l'altro. C'è un concetto spaziale di cosa, non di pensiero. Torniamo al suo libro, che è fondamentale anche perché riguarda la teoria della nascita, dello sviluppo, le scoperte sull'identità umana preverbale. E quindi anni fondamentali, quelli della nascita, insomma, della pancia, diciamo, i primi anni di vita, in cui appunto si snodano le sue teorie principali, tra l'altro. Sì, sì, sì. E anche dove io lavoro, perché il cardine fondamentale è che io non ho fatto nelle scoperte, lo studio e la conoscenza in biblioteca, lo fate nel rapporto col malato di mente. La faccenda della malattia mentale è un'alterazione dei primi mesi, settimane di vita. Non è il problema dell'identificazione col padre che viene dopo, no, quello è all'origine, è lì che si forma la malattia mentale. Dopo si possono formare nevrosi, non nevrosi, isterie, nevrosi ossessive, caratteropatie, ma la malattia mentale vera e propria sta nei primi mesi di vita. E io, quelli che, di cui possiamo sapere, perché non c'è memoria cosciente, soltanto attraverso i sogni, che sono la voce dell'incontro. E questa è la voce di questo terzo di vita, nella misura in cui vi auguro di dormire 7-8 ore al giorno, Non è detto che questo accada, ma 33 anni di vita, e bisogna studiare quel pensiero lì. Però si ha, che anche i filosofi non lo prendono mai in considerazione, come se non esistesse. Senta, a me quando uno dorme mi pare che non è morto. Allora il pensiero c'è. Fagioli, è possibile spiegare in poche parole, ovviamente in via radiofonica, il concetto di fantasia di sparizione? Ah, questa è una domanda difficilissima, perché posso raccontare come mi è andata la faccenda seguendo i sogni che mi dicevano e seguendo Questo è difficile. Seguendo quello che ho scritto nelle prime pagine di questo libro, a un certo momento mi sono trovato di fronte a un paziente che mi accusava di avergli fatto del male perché non c'ero. Se non c'ero, come ho fatto a farti del male? E lì viene il discorso dell'assenza. L'assenza che fa del male. E non è probabilmente l'assenza fisica, che si discuteva sulle vacanze estive, quanto la reazione a una distanza, a un movimento tra parti di due persone, per cui viene fuori l'identificazione, con questa persona si chiama, con l'aggressore, cioè no, tu non è che tu mi abbandoni, sono io che ti elimino. Sì, sì. D'accordo. Sì. E diciamo qui c'è il cretino di Freud, che non aveva... La volpe e l'uva in pratica. No, una per roba la volpe e l'uva è che non posso, eccetera. E quindi no, è un po' diverso. È un po' diverso, un po' diverso. Vabbè, si faceva per scherzare ovviamente, non ci provavo minimamente a dire una cosa sensata. No, invece però fantasia di sparizione e pulsione di annullamento anche. Allora io pensavo pulsione di annullamento. E poi l'importanza di distinguere le due cose. Perché se no, se noi pensiamo che la nascita, la scoperta della pulsione comincia con la pulsione, che è pulsione di annullamento, e questo mi fila. Cioè il neonato logicamente non sopporta il mondo perché muore subito, non sopporta il sole, non sopporta il caldo, non sopporta il freddo, non sopporta niente, e allora c'ha questa reazione istintiva che è l'annullamento, non esiste. Però contemporaneamente, siccome esiste una realtà biologica, una realtà materiale eccetera, questo non è pulsione d'annullamento ma diventa fantasia di sparizione. Per cui il mondo non esiste, ma esiste il rapporto interumano. Perché fa questa pulsione dell'annullamento la capacità di far sparire quello che c'è, ma di creare quello che non c'è. Cioè la fantasia del rapporto interumano, che io un tempo chiamai inconscio mare calmo, che adesso ho perfezionato come capacità di immaginare. No? Per cui, ecco, sarete contenti. Quindi ho dato ragione a Marx, che dice l'uomo è per sua natura essere sociale. Non è individuo solitario, eccetera, no, non è Robinson. No, è per sua natura, perché c'ha questa cosa per cui la prima proposizione è che deve esistere un altro essere umano. Come, non come pensiero e parola, ma come realtà interna di immagine. Quando si parla di Massimo Fagioli si parla di analisi collettiva. Oh, questo sono... è un altro grande fenomeno che dovrebbe interessare la sinistra. Senza dubbio, volevamo capire innanzitutto un po' meglio cosa succede, insomma, come avviene, no, cosa questa analisi. Cosa è successo? Cosa è successo? Se non ci capiamo. Certo. Che io ero andato all'università, eccetera, con l'incarico di fare le supervisioni a giovani analisti eccetera, e lì accadde che da quello che dicevo o perché avevo scritto 3 libri in cui non ero tanto freudiano, cominciavano ad affluire le persone prima 10, poi 50, poi 100 e poi 150 e poi io ne ho fatto, e una cominciò il 2 gennaio del 76 a dire ho fatto un sogno. Io invece di ritirarmi nello studio dicendo il sogno si racconta nello studio privato, nella seduta analitica, di previo pagamento, niente, ho risposto. E così è stato. Da lei altre migliaia e migliaia di persone, per cui ho fatto un primo gruppo, un secondo gruppo, un terzo gruppo, un quarto gruppo. Per cui lì saranno venute migliaia e migliaia di persone, perché è assolutamente libero, gratuito. Io non chiedo nome e cognome, ho fatto saltare il contratto professionale. Poi nelle 80, siccome c'era il vecchio Reda che diceva che la cosa non poteva andare bene, peraltro era che la stanza era piccola eccetera, fortuna volle che trovai il posto dove sto adesso, un bello stanzone, e sono riuscito a portare al privato la stessa cosa, la stessa regola lì. Che fosse gratuito, era università, forse. Era istituto pubblico, era faccenda statale. Quanti sono le persone mediamente che si incontrano davanti a lei, insomma? Centinaia. Centinaia. un migliaio alla settimana. Come si fa a capire un problema singolo e magari anche a tentare di curarlo in mezzo a mille persone? È questa la cosa nuova, che naturalmente essendoci 150 persone se non 200 in 4 ore, io prima erano 2 ore, poi l'ho portato in un mano avanti fino a 4, in 4 posso parlare con 50, 60, interpretare 50 sogni, gli altri 100, no? Bene, accade che dopo anni uno dice: io sono venuto, stavo malissimo, non ci ho mai parlato. Lui si è fatto il suo tarosetto, il suo lavoro insieme agli altri, senza partecipare direttamente al rapporto con me. E adesso dice: sto bene, sto meglio. Come no? C'è situazioni di malattia grave, di allucinazioni, gente catatonica, gente che non si vestiva a 15 anni, non riusciva a vestirsi da sola. Ah, adesso sta bene, l'ho visto, c'ha la ragazza, va in giro. Perché è il gruppo. Questo dovrebbe interessare. È la collettività. Tanto che io dico sempre che una cosa di questo genere non sarebbe accaduta in analisi individuale. Cioè quello che si fa per... Allora tu vieni alle sedute e mi dai tot per ogni ora, eccetera, eccetera. Come si fa col tassinaro? No, è possibile. È l'assoluta libertà. Io mi sono affidato al 100%, allora per cui nell'80-81 ho abolito l'analisi individuale. E l'ho lasciato che ognuno. Ma la conoscenza del paziente non aiuta nell'interpretazione del suo sogno? Il conoscenza che la vuol conoscenza... dire? Il nome e cognome, no, che cosa la conoscenza faccio? Del contesto della vita del paziente? No, non mi interessa io, quindi quello che conta. Io abolisco ogni identità sociale, professionale, nazionale, che so io, eccetera. Mi interessa soltanto la realtà umana. Però quindi dire... che uno abbia i soldi di Berlusconi o sia morto di fame. No, non intendevo quello, non intendevo quello, però voglio dire conoscere il vissuto psicologico e umano del paziente. È nel rapporto diretto. Come ti presenti, dire, se... come mi parli, come è, eccetera, eccetera. È un perfezionamento, se vogliamo, di chiaro. Quello che succede a tutti. Incontrate uno sconosciuto e dovete orientarvi più o meno nel giro di mezz'ora, un'ora, eccetera. O addirittura una ragazza, no? E allora dice che cos'è e che cosa non è. E io faccio lo stesso. Sentiamo, vediamo. Un'ultima questione, Fagioli. Sono tanti anni che non viene alla festa dell'unità. Qui ecco, vi devo ringraziare. Io devo sempre ringraziare gli editori nuovi, devo ringraziare, ma soprattutto devo ringraziare l'analisi collettiva, se è venuta fuori questa prima edizione, assolutamente, che è uguale ma è completamente diversa. Però forse devo ringraziare anche voi, o meglio il Festival dell'Unità, perché le memorie. E noi andammo nell'80 a 5 Festival dell'Unità. Era il momento in cui avevamo lasciato Villa Massimi, l'università. No, l'abbiamo lasciato a ottobre, ma insomma fa lo stesso, ormai era tutto preparato. E ci fu, non so da quale parte, ma forse da parte del Partito Comunista, quella volta c'era il Partito Comunista, un'apertura, una cosa, e andammo qui a Caracalla, una della prima era proprio di Caracalla nell'80 qui, poi andammo a Firenze, poi a Siena, fino al 7 quello nazionale dell'unità a Bologna, ho fatto 3 conferenze là. Quindi c'era un'apertura, un interesse, eccetera, eccetera. Quando fu ottobre, una chiusura totale. Doveva fare una piccola recensione, bocciata completamente. Cioè, sembra che il coso fosse stato chiarante. Che fosse stato? Chiarante. Ah. Cioè, ancora no. Un vecchio... Non... Cioè, da parte del comunismo... questa apertura non è. Adesso l'avete ripristinata, l'avete rifatta, speriamo che non ci siano stroncature, perché adesso mi fai fare il discorso politico. Sì, ecco, volevo portarla proprio lì, lo so. Perché mi interessava, La fonte del marxismo. Adesso hanno messo là un quadro abbastanza di una negra con delle belle tette. Con la testa bassa che tiene martello da una parte e falce dall'altra. Mi ho detto: ma la vuoi sta cosa? Sì, la voglio. Il fondamento della storia del comunismo. è fondamentale. Però la storia del comunismo è fallita, perché ha pensato solo all'uguaglianza e non alla diversità. È fallita perché Marx è fallito nel 39, quando ha scritto la lettera al padre, nel 37, quando ha scritto la lettera al padre, che lui si era occupato di realtà mentale e non ci aveva capito niente. Per cui poi nell'845 ha fatto l'ideologia tedesca, passando alla ragione, passando al positivismo, eccetera, eccetera, per poi fare Capitale, Grundisse ed economia, e prima economia politica nel 59, eccetera, eccetera. Ora, e poi, quindi, niente, poi io sono un fatto personale, nel senso che da piccoletto stavo con i partigiani che erano comunisti, e quindi ho fatto un po' il Sandokan, ho fatto un po' il Corsaro Nero, eccetera, a 12 anni, chiaro? A 12 anni, eccetera, per cui mi è rimasta questa simpatia per questi partigiani comunisti, proprio di quelli ad Avenir Baffo. Però poi non andava bene, non andava bene, perché il regime in quel modo non è diventato rivoluzionario, è diventato oppressivo. Non fu, perché? Perché invece adesso si dice in continuazione, bisogna riuscire a mettere insieme la parola uguaglianza con la libertà. Per far questo occorre la teoria della nascita, tanto per farla breve. Si nasce tutti uguali. Poi si diventa diversi, ma la nascita è uguale per tutti. Istinto di morte e conoscenza, presentato fra qualche minuto allo spazio Rinascita, libro edito dall'Asino d'Oro, Massimo Fagioli a scriverlo, nel 70, ripubblicato oggi. Grazie mille Massimo Fagioli di essere grazie stato con noi. Grazie a voi di aver ascoltato le mie chiacchiere. Grazie mille, no, siamo molto felici di averla ospitata. Noi continuiamo questa puntata, sono già arrivati nuovi ospiti che fra poco presenteremo. Ci fermiamo un attimo con la musica e andiamo avanti con i Cara Serena. Facile farci sopra una risata, tipico è un pessimo poeta, complici delle scelte di una vita.